Hello, this is a show from Radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Are you up for it? Pronto, pronto. Uno, due e tre. Pronto? Pronto, pronto. Uno, due e tre. Oi, giocatori de Lamparas del sud 2009, da Orlando, sto vedendo questa registrazione. De questo mutete adesso, questo accaduto, non posso memorizzare. Ti hai il registro. E si vede. E sarei godano te, e batta ad un momento, e sanno in te mi va di traigi. L'aire le laira le lara, e le la le lara le lara. Yolanda ti nanta de nomini. Registrasa, po non ti indiscaresci. Is poesiasa, e mutettu vattusu, con su compangio cosa tua in custo sannusu. Deu Deu! Yolanda, Deu ripara! Arrivo in via Domenzoni, gli scurini sono aperti e sicuramente c'è zia Yolanda seduta vicino al fuoco. È seduta in una sedia bassa, una scanigè di legno, e sta facendo un cestino. Lei seduta di spalle, il fuoco dietro, sempre con la sua crocchietta, anche se ormai i capelli non ce li ha quasi più. Sicuramente mi farà sentire una poesia che ha scritto stanotte. È il momento migliore per scrivere. C'è silenzio, non la disturba nessuno. Sempre molto rossa, sembra un po', cioè com'è seduta in quella sedia così, in quella sedia così bassa, sembra proprio una matriosca, piccolina così, tutta compatta, con queste guance rosse così. Questo è un motetedo che su tempo spassato cosa mia, e seguile. E con un garbo e bello moso, e recito poesia, e chi m'ha pure parato. E recito poesia, e canto bello sbarregoso, e desso tempo spassato, e che dentro è sa mente mia. Con sa motocicletta anda sta frumini. Ascia questa roba, impari e spicciò casa dei guspini. Salissia va da Iesi con su vogu, e canta canta ci va sa Iesi sola. Sacuagi dentro in su botto, Sacuva di dentro il suo botto, sacuva di dentro il suo botto. Acqua c'è nuco, con due pedra e frica gli ausso. Con due caddaci acqua bollendo e sticchiaiamo su spanno, su niente parecchina, niente cosa saicci. Poi su ripassiamo, su sfrasciamo, su bello bello, bello profumo dell'avero, fa niente salissia, su fuoco, con su cinese si lasciava assentare e si covava. Poi, quando fu bella lucida, che tagliavo su spanno, se fu diventa spanno. Non da lune calenti e ne fida, e cadiga da sai, il suo rumino vato, e custa dando verità. Quando moriva qualcuno, il morto veniva composto sul letto a casa. Tutta la roba che veniva usata era la roba più bella che poteva avere la famiglia. Zia Landa poi veniva chiamata dalla famiglia per lavare questa roba. Lei si occupava del lavaggio di questa roba ed era quasi un segreto tra la famiglia e Zia Landa. Tenia me, se no, di andare al Tecnantai a fare questa lizia cantata, fumac. Questa di si presenta de bella di a mangiare, appena da pubio, su coro mi ha tremato. Tra la lera, lera, lera, la lera, tra la lera, la lera, la a tu batti tu coro, Marella e poi me i buru sa di e me la bella tra la lera lera lera la lera tra la lera la ire la ritella i tabellu via de sigido su in sa terra e me i sienta bollinia e me va in sa guerra tra la lera lera lera la lera tra la lera la ire la ritella. Sammatta in pari efisi esi gastiau, in pistisi, mensu montigeddu, esi vesau sa barracca, cumo dizi e scova de Santa Maria. Questa è cosa matta mia. Ho matta dei cenibri famosa. 40 anni ti viaggio su Vostau. Sa mano nostra, gentile e premurosa, assistenza e difesa da prestau. Ho di B sempre bella che una rosa, un ecologico ambiente a suo creao. A suo tempo moderno non t'apportavo, sa meridare e sa ricordo antico. Cosa B, che risplendente spiego, cosa gente che dà castiao, che sul mondo intero testa amico. In questo luogo mi viene da stare in silenzio. Vedo delle finestrelle. Sono degli archetti fatti con le piante. E da questi archetti si vede il mare. Quando ho conosciuto zia Landa, anche lei aveva un compagno, Efisio, ed erano 40 anni assieme. Erano proprio innamorati. poi avevano scoperto questa pianta a Pistisi. Andavano ogni giorno lì. Erano contenti e felici. Ascolta, cara gente guspinesa, a tui, casa da fabbile e cortesa, e figlio Osanna, un canto da doffi dedicai, e speranzoso che di voi spreviai, su sole tetto, a sonau voi spasso. In muro, tranquillo, scutendo il lasso, ma non tenendo da un buon vivo cantai, sa canzoni la canta da Yolanda Zasso. Pronto? Uno, due, tre. Pronto, pronto. Uno, due, tre. E figlie duvin sa colina sa capanna sa costruiu. Pronti a San Marino, sagapana di effiget, totu gantu sua visitai. Gentilmente veniva a sagattai, posa ascoltai, cantai e recitai, poesiasa e mutetto in sardo, de mangiano vinzasa su notti dradu. Come ti chiami tu, bambina? Raffaella. E da dove vieni? Da Milano. E quanti anni hai? 4 e 5 e no, 3. Cosa ci canti? Io sono Tardinella. E a chi la dedichi? Ai signori della capanna. Cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu. Au, au, au, au, au, au, au, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu. Erano contenti quando andava la gente di fuori e poi ne venivano da fuori, in questo periodo specialmente, ne venivano, turisti andavano e... Era bellina questa pianta, non so se ci sarà ancora. Cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu. Comunque non c'è niente intorno a San Matta, c'è solo San Matta, è tutto buio. E ci sono queste luci che vengono verso San Matta dalla spiaggia, come un serpente di lucine che arriva verso di loro, verso zia Landa e zia Fisi. A volte ci andava talmente tanta gente, non facevano in tempo neanche a mangiare, zia Landa e zia Fisi. Dover ti abbandonar, Un vugumanno sta arribau, in Augusto, mensu Montigeddu, sa genti sarà giudau, andidu studai. Respira come respiriamo noi. Ha i suoi punti deboli e nei suoi punti deboli devi attaccarlo. È una sfida. Io ti devo uccidere, io ti devo spegnere. Si raggiunge un certo sistema dove l'aria diventa benzina. La combustione è perfetta. Allora fischi. E cammina. Matta esi lassau, appustisi de 40 anni su, e sa morti sperdidora, e fisi un bagliao. Pronto? Pronto, pronto. Uno, due, tre. Custata da dentro contro se sa morti. Cadui non rispetta, manco subito. E questo mi vai, grande disprezzai. L'aire, l'aire, l'aire, l'aire, l'aire, l'aire, e la, le, la, la, le, la. Mutetto, posso compagno mio? Ia samata makocho, ia samata makocho, e da un ponju sabrazi, poi indise una rosa, e da binu asuna giso, con dubra di sempre bio. E con dubro di sempre bio. Io sono matta in macoso, amor di distruggere ora, poi Italia o i mindasi, deve essere improvviso, su garu gumpangio mio. Che perdona e non ti voce. E da un po' giù saprasi, che perdona e non ti voce. E con dubro risempi bio, e con dubro risempi bio. Depressia si improvviso, o morti distruggitore, che perdona e non ti voce. Ci depressia si improvviso, poi Italia qui mi indasi, su caro compagno mio. Su garu compagno mio, oh la le ra la le la ra, oh la le ra la le la ra. Tu Yolanda in guspini si chisa cantai, bendisi vrorisi, si zigorrusi e tuvara, in sa dommo del ladrini vesi scarteddusu, e ti bragiri a sprevia sa genti. Canzone anche io la prima. No. Fate come ti va stasera? Il sanno canta, brusa di scarpe. Le canzoni dei curva che sia. Cosa vi? Canzone anche sia, mamma, non bisogna ricordare. Basta non ricordare il suo titolo, del principio. Mi da noto, ma vedo. Canti, canti. Peppa, peppa, resta in secca, resta in vinda, peppa, vinda. La canzone è come mettere la sauso a varo. Ehi, piano piano vi ti ricordo, a pago a pago. A poi cambiava la voce del base. Però, c'è ancora così tardi che dà un poncio, tocca chi dà tanto, mi ti pensi a base, dà un poncio quello che Molte volte l'accompagna all'ospizio da questi anziani e lei si prepara già da casa tutti gli strumenti, la sua fisarmonica a bocca, il suo registratore, lo mette dentro il cestino, proprio di quello che si usa per prendere i funghi. Partiamo in questa spedizione e inizia a suonare Tare Mutetus, Barcolla, barcolla, va a prendere qualcuno per farlo ballare, anche se lei stessa non riesce comunque quasi a reggersi in piedi a volte. Troppata sa boy. Mi vigo su vueto, mi vigo su vueto, si a Vitalia oi se canta un teto. Tra la lera, lera, lera, la lera, tra la lera, lera, lera, la la. C'è sempre questo banchettino davanti al fuoco e c'è sempre una scatola. È lì che fa la DJ. In passato ha registrato anche dalla radio, però adesso abbiamo comprato anche un altro registratore. Un registratore più moderno, però a lei non piace tanto perché la qualità del suono non la convince. Sopra i tasti ha messo dei pezzi di nastro adesivo colorati. Ce n'è uno giallo e uno rosso. Quello giallo è la pausa e quello rosso è il play. Sa già che l'ultimo a sinistra è lo stop. Quando lei ascolta i nastri si vede che lei non è qua, è nel momento in cui è registrato, riesce proprio a viaggiare nel tempo. E da voi, mamma, c'è il nastro da prova a cantare. Certo, cadenendo 90 anni fatto, non mi besse di commenti da cantare prima. Però ho che ascoltare a commentare. E seguire? Yolanda mi nanta in nomini, Yolanda mi nanta in nomini. Amori dentro sa poesia, amori dentro sa poesia. E fine di da gazeo, questa canzone è da mia, e questa canzone è da mia. Amori dentro sa poesia, e fine di da gazeo, questa canzone è da mia. E questa canzone è da mia. La ire le la ia le lara, e la le la la le lara. Yolanda mi nanta in nomini, Yolanda mi nanta in nomini. Fine. End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.